e non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero e non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è solo partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Libertà è solo partecipazione. Prendi un piccolo fatto vero, monologo drammaturgico da testi di Edoardo Sanguinetti a cura di Luca Micheletti con Lino Guanciale. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Pietro D'Attola, direttore artistico della 15ª edizione di Inventaria, la festa del Teatro Off a Roma, dal 16 maggio al 10 giugno 2025, ben trovato. Ciao, ciao. Spieghiamo cos'è. Inventaria è un festival di teatro, è la festa del Teatro Off, teatro che circuita tendenzialmente in spazi che non superano i 100 posti a sedere e di conseguenza il palco è parametrato a questo, e quindi questi ambienti determinano un po' quello che sono poi le caratteristiche degli spettacoli che li abitano. Sono spettacoli che tendono a privilegiare il segno anziché la scenografia, e sono spettacoli che tendono a privilegiare la prova d'attore perché è quello che risalta di più, perché si è più vicini al palco piuttosto che lo spettacolo in senso spettacolare. E quindi è il teatro che mette maggiormente in moto l'immaginazione dello spettatore e non c'è scenografia più forte, più potente dell'immaginazione dello spettatore. Quanti sono i lavori presentati? Quest'anno abbiamo selezionato 7 spettacoli e 6 demo, in più c'è uno spettacolo fuori concorso del nostro. Sia gli spettacoli che le demo cercano di pescare dal più ampio insieme possibile di linguaggi, di generi, di atmosfere, quindi passiamo dal teatro di prosa tradizionale a quello un po' più sperimentale, dalla clowneria al teatro fisico, al teatro d'oggetti, al teatro di narrazione, quindi insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, come del resto è da tradizione per Inventaria. Com'è stata la scelta? Ogni anno è sempre difficile, perché veramente arrivano proposte molto valide, tanto che quest'anno avremmo potuto fare 2 festival, se avessimo potuto. Il nostro obiettivo è quello di selezionare quello che ci sembra il miglior spettacolo per andare a coprire ogni singola forma di teatro, quindi appunto quello più di parola, quello più fisico, quello più sperimentale. E in questo modo lo spettatore ideale che volesse seguire tutto il festival uscirebbe ogni sera con un'esperienza totalmente diversa. Quali sono gli spazi? Anche quest'anno Inventaria si appoggia a Carrozzerie Notte, Teatro Trastevere, Teatro Basilica e Teatro Sofia. Sono 4 realtà off molto diverse tra loro, sia per direzione artistica che per ambientazione, per cartellone e anche proprio per posizionamento geografico, perché passiamo da Ostiense a Trastevere, da San Giovanni a Piazza Navona. Come si articolerà il festival rispetto alle giornate, rispetto agli orari e rispetto agli spazi e agli spettacoli? Tutti gli spettacoli sono sempre alle ore 21, anche la domenica, e il festival è diviso in 4 blocchi. Il primo blocco è il 16-17 maggio a Carrozzerie Notte, il secondo blocco dal 27 al 29 maggio al Teatro Trastevere, il terzo blocco dal 6 all'8 giugno al Teatro Sofia e si chiude il 9 e 10 giugno al Teatro Basilica con la sezione demo. sono dei work in progress, degli studi di circa 20 minuti, per il teatro che ancora non esiste, non è proprio compiuto nel proprio formato, ma è la prima messa in prova di un progetto, e questo spesso è foriero di un'esperienza particolare per lo spettatore, perché se già il teatro off in sé chiama in causa l'immaginazione, le demo sono il massimo da questo punto di vista. I riferimenti internet per i dettagli del programma? Il sito è www.dovecomequando.net, mi raccomando, il net. Poi su Facebook la compagnia Dove Come Quando, e anche su Instagram uguale compagnia Dove Come Quando, e volevo segnalare anche che abbiamo un canale Telegram, sempre compagnia Dove Come Quando, con una chat in cui nel corso del festival organizzeremo anche delle promozioni, oltre poi nel corso dell'anno a tenere aggiornati sul teatro off in generale, segnaliamo gli spettacoli migliori di teatro off sparsi in tutta Italia. Quindicesima edizione di Inventaria, la festa del teatro off a Roma dal 16 maggio al 10 giugno 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Pietro Dattola. Alla prossima! Grazie a te, ciao! Con Pasquale Grosso dell'associazione AP Antimafia Pop Academy per presentare la prima edizione del Festival 360 Media Pop Fest, ispirata ai 30 anni del film L'Odio. A Roma, l'associazione AP Antimafia Pop Academy, 16 e 17 maggio 2025. Ben trovato! Ciao, ciao a tutti e a tutte! Ce la presenti? Questa è stata un'idea che ci è venuta quest'anno con la volontà di cambiare un po' rotta rispetto ai ragionamenti messi in campo dall'associazione in questi anni. Abbiamo scelto di trovare un format di festival che possa ispirarsi in generale alle grandi produzioni culturali del passato recente o meno, e che queste produzioni culturali possano veicolare il dibattito. Quest'anno abbiamo scelto L'Odio, quanto mai veramente contemporaneo come film, come visione, come punto di vista, soprattutto per quello che riguarda le tematiche che noi andremo ad affrontare, ma che affrontiamo quotidianamente nel nostro impegno associativo, e quindi ci sembrava veramente una scelta azzeccatissima rispetto al nostro presente, rispetto alle condizioni delle periferie delle nostre città, alle condizioni dei migranti, alle condizioni nel quale il paese versa dal punto di vista dei diritti e ancora del percorso lunghissimo che dobbiamo fare per allargare la sfera dei diritti. E quindi abbiamo scelto questa tipologia di ragionamento, abbiamo fatto con un punto di vista che fa ovviamente dell'antimafia sociale un prerequisito, ma per la lotta appunto per i diritti, e le chiacchierate che verranno, in verità chiacchierate ce ne sono poche, abbiamo scelto anche in questo caso un format un po' diverso, abbiamo dato spazio a delle parole che guidassero un ragionamento, abbiamo invitato delle persone a declinare quelle parole e a declinarle secondo il loro punto di vista e secondo il loro portato culturale. Per esempio, aprirà, a parte la chicca dell'estetica dell'apertura con DJ Fatsen, che riproporrà la scena di DJ Cat Killer dalla finestra con una routine da DJ molto bella, ma la prima a prendere parola sarà Ilaria Cucchi, declinando la parola odio. Chi più di lei, insomma, con il suo portato personale può mettere in campo un punto di vista interessante. Abbiamo invitato il rapper Danno a dare il suo contributo, l'anno prossimo sono 30 anni di Odio Pieno, no? Del disco del Colle del Fomento, quindi anche loro si lasciarono ispirare all'epoca da questo capolavoro cinematografico. E ancora abbiamo invitato tanti e tante, ne cito alcuni di altri artisti che saranno sul palco con noi, sul palco dell'Accademia, tipo Kento, il rapper Chiave, Chiodo, Don Cocò, sono tutti rapper che fanno parte della rete Keep It Real, che è il progetto di pop pedagogy che stiamo facendo in giro per l'Italia, in tutte le periferie, da Corvetto a Ponticelli di Napoli fino a Cosenza, e anche i territori saranno coinvolti. In effetti ci sarà l'associazione Format Arte, con noi collabora a Milano Versante Corvetto, c'è l'associazione Quarticciolo Ribelle sul palco ovviamente per raccontare la loro esperienza, ci sarà Gianluca Peciola, avremo ospiti giornalisti d'azzardo dell'Internazionale, avremo le professoresse Maria Grazia Galantino e Assunta Vitiriti della Sapienza, avremo Karima 2G, insomma un sacco di ospiti i quali vengono a filare le parole e le declineranno sul palco a loro modo. Abbiamo scelto di non saperlo, c'è chi canterà, chi rapperà, chi farà un reading, chi invece farà un discorso, ognuno di loro però verrà preceduto da una delle scene del film, quindi ogni intervento sarà preceduto da una delle scene del film, e ci saranno anche dei breaker che faranno la loro performance artistica celebrando, perché nell'Odio è la prima volta che una produzione europea Andrea mette in dentro un film i breaker che ballano, perché c'è una scena bellissima dei breaker che ballano prima di una sparatoria e il breaker rimane solo a ballare con la sparatoria che avviene lungo le strade, e quindi anche loro porteranno il loro punto di vista e parleremo di corpi, quindi parleremo di migrazioni, parleremo di democrazia, parleremo dei quartieri in difficoltà, parleremo del DDL, della sicurezza, delle parole chiave, ci sono i maestri di strada di Napoli, di Ponticelli con noi, insomma un festival ricco di ospiti, sono circa 25 interventi, parleremo anche di cinema insieme a Braucci, insieme a Giacomo Ferrara che è lo spadino di Suburra, insomma proveremo a mettere in piedi un dibattito, una discussione su quelli che sono appunto i temi del film, che sono anche i nostri temi. Come saranno articolate le due giornate anche rispetto agli orari? Partiamo venerdì alle 18, andremo avanti fino alla sera, e il sabato dalle 17.30. Le due mattinate invece saranno dedicate ad un confronto appunto sui pedagogi con tutte le realtà che fanno parte del nostro progetto, quindi due tavoli di lavoro sulle tematiche dell'hip hop e inclusione sociale. E per il resto ci vediamo il pomeriggio. Ci dai i riferimenti web per tutti, certo, i dettagli? appacademy.it, il nostro sito, le nostre pagine social sono identiche, quindi sia su Instagram che su Facebook, e noi siamo in via Contardo Ferrini 83 sulla Togliatti. Il titolo del festival, la scelta com'è? Il mondo è nostro, come la frase che campeggia su una delle scene clou del film, dove c'era scritto il mondo è vostro, invece uno degli attori passa con la bomboletta, traccia la V e fa il mondo è nostro. Andiamocela a prendere questo mondo. Prima edizione del Festival 360 Media Pop Fest dal titolo Il mondo è nostro, ispirato ai 30 anni del film L'odio. A Roma l'associazione AP Antimafia Pop Academy, 16 e 17 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Pasquale Grosso di AP. Alla prossima! Grazie. Con Giorgio Soffientini del Comitato di Quartiere Certosa per presentare la 15ª edizione della Festa di Ciro a Roma sabato 17 maggio 2025. Ben trovato. Grazie a tutti, ben ritrovato anche a te. Facciamo la storia, spieghiamo un po' cos'è questo evento. Questo è il 15º anno che lo facciamo, ma abbiamo iniziato 17 anni fa, perché ci sono stati 2 anni di pausa per via della pandemia, e in ricordo di Ciro Principessa, un militante della FIGC che è stato assassinato nel 1979 davanti alla sezione del PC di Torpignattara dal figlioccio di Delle Chiaie, accoltellato perché il figlioccio di Delle Chiaie aveva rubato un libro dalla Biblioteca Popolare, e Ciro lo ha rincorso e questo soggetto l'ha accoltellato. E in ricordo di Ciro noi facciamo questa festa, quest'anno è ancora più grande degli anni passati. Come si svolgerà la giornata? La festa inizierà alle 10 al Giardino Liberato in via Alessi, dove ci saranno il mercatino biologico e il mercatino dei bimbi. Quest'anno i bambini faranno i loro banchettini, venderanno le loro cose. Inizieranno appunto alle 10 con le attività per bambini, Capitan Calamaio, Circo Mare, che è un teatro, quindi abbiamo uno spettacolo, delle attività dei laboratori, teatro e spettacolo, per poi continuare il pomeriggio in tutto il quartiere. Si snoderà partendo sempre dal Giardino Liberato per via dei Savornian, dove ci saranno i banchetti delle case editrici, delle librerie, delle associazioni. A metà di via dei Savornian, incrocio con via Centogatti, ci sarà uno spazio dove saranno fatte le presentazioni dei libri, delle riviste, dei podcast e alla fine un reading del libro partigiano John con immagini e parole. Si snoderà ancora sempre via Savornian per arrivare al largo dei Savornian, cioè la piazza centrale del quartiere, dove dalle 16 cominceranno i concerti, la musica, lo stand-up comedy, una pista teatrale. Quest'anno avremo Banda Iorana e Cobol tra gli ospiti, per poi continuare ancora sempre per via dei Savornian, uscendo dalla piazza, andando verso la coda, dove ci saranno i banchetti degli artigiani e i banchetti per una simultanea di scacchi. Si arriverà al parchetto della Quercia Centenaria, dove ci saranno musica, laboratori, teatro, e musica e poesia, altri spettacoli. Insomma, quest'anno avremo più di 50 spettacoli, e tutto questo gli artisti non pigliano una lira, lo fanno per sostenere le nostre attività. Quali sono le realtà oltre al Comitato di Quartiere che contribuiscono alla giornata?

e di proponibile anche a chi a quel tempo non era probabilmente neanche nato o non ha vissuto appieno l'esperienza dei centri sociali. Il messaggio che esprime il romanzo, cioè se calpestano i tuoi diritti è giusto ribellarsi anche con le maniere forti, era indirizzato proprio a loro, non a coloro che hanno vissuto la mia stessa esperienza, che hanno potuto vivere davvero al vivo quegli anni, insomma. Ci tenevo che fosse una cosa che non puzzasse di muffa. E proprio per questo ho scelto come protagonista una rock band. Il Centro Sociale Leoncavallo allora era una grossa fucina di rock band, organizzava molti concerti, e questo mi ha consentito di evitare un'analisi sociopolitica che non ne ho le capacità, e quindi ho scelto un punto di vista più poetico, più estetico. Volevo dargli la stessa forza della musica che ascoltavamo allora, dell'aria che si respirava allora. E proprio per questo la cosa più facile è stato farlo raccontare da una rock band, anche perché quella rock band di Pila Weston, che sono i protagonisti del racconto, erano il mio gruppo e quella mattina c'erano davvero su quel tetto di Via Leoncavallo al 22. Com'era nata la spinta a scriverne? È curioso, io sono un montatore video di mestiere e volevo fare un piccolo documentario su quegli anni, e quando ho iniziato a farlo mi sono accorto che tutto quanto avevo montato di video non reggeva nulla, mentre il commento era molto carino, e così ho pensato e ho cominciato a pensarlo come libro. Curiosamente l'ho spedito al bassista mio vecchio dei Pila Weston e lui senza dirmi nulla li ha portati in shake e così è nato il libro. Come lo hai strutturato? È un libro molto in prima persona, un linguaggio molto diretto, molto esplicito, c'è molta azione, molta adrenalina dentro, anche perché quel giorno è stato davvero un giorno super sotto tutti i punti di vista, e quindi ha una cadenza molto veloce, ripeto, come se fosse davvero una canzone punk come quelle che suonavamo. È un libro raccontato tutto in prima persona, ha un solo piano narrativo, quindi è un libro molto diretto, con parole molto, molto crude, le parole vere che si usavano allora. Era anche una volontà di andare contro un certo revisionismo che c'è adesso in giro, voglio dire le storie della memoria collettiva e altre banalità che lasciano il tempo che trovano. Rivedere quei fatti a distanza di decenni, che effetto fa? Credo che sia stato uno dei migliori concerti che abbia mai fatto in vita mia, per usare una metafora. Riguardo con estrema tenerezza, con la convinzione di aver fatto qualcosa che è servito a molta gente. Ha aperto molte porte, ha cambiato tante cose anche in ambito artistico. Il centro era davvero una calamita per un sacco di artisti, tra i più vari, musicisti, cinematografari, graffitari, fotografi, teatranti. E quindi li vedo come la speranza, come lo vedo adesso, la speranza che qualcun altro ripercorra quelle orme. Non sono difficili. Io ho fatto quasi 100 presentazioni con la prima edizione di Fiamme, mi ci sono trovato davanti tante volte ai ragazzi di 18 anni e avere un rapporto con loro, ricollegare quel filo che a un certo punto si è spezzato, è stata la cosa che più mi ha dato soddisfazione e mi ha fatto capire che quei fatti ancora adesso valgono. La scelta del titolo? È semplice, cioè l'unione delle Molotov insieme alla musica che facevamo. Vuole rappresentare un po' quella mattina che non ha avuto solo una connotazione politica, non è stata solo una rivolta politica, è stata soprattutto una rivolta culturale e sociale, per quello c'è rock and roll. Come dicevi prima, giustamente, quell'episodio è stato anche nell'immaginario un momento importante per anche le generazioni a venire per quanto riguarda la politica dal basso e l'autogestione. Esatto, comprendeva tante cose. È stato qualcosa che forse ha tolto la paura a molta gente, cioè è riuscito a dare quel minimo di fiducia e dare poi in fondo maggior risalto alle autoproduzioni, che erano una caratteristica fondamentale di chi faceva parte di un certo circuito indie underground. Cioè per noi Do Yourself era una cosa scontata, anche perché non esisteva alcun canale che potesse veicolare quello che facevamo. Cioè la cosa molto divertente di quei tempi è che io prendo quello che diceva Fumo è il cantante degli LHP, Lionel Sposs, che diceva la cosa divertente di quel periodo è che siamo arrivati come delle grandi rockstar, sai, a 18 anni tutti pensano di essere i migliori, no? E in quel posto abbiamo imparato invece a pulire anche i bagni, a dividere tante cose faticose per creare un circuito che fosse reale e solido. Non avevamo altra scelta per andare avanti ed è stata una cosa che ci ha formato dal punto di vista umano, oltre che artistico. Il libro Fiamme Rock and Roll, un saluto e un ringraziamento all'autore Bruno Segalini. Alla prossima! Vi saluto, ciao a tutti! E buon pomeriggio allora a tutte e tutti e torniamo con il nostro appuntamento dedicato al teatro della settimana a Roma. Ed ecco qui, intanto primo appuntamento che voglio segnalare quello è il festival dell'associazione App Antimafia Pop Academy che ci sarà in questi giorni, precisamente 16 e 17 maggio. Conosciamo insomma sulla Palmiro Togliatti, quartiere Cinecittà, Tuscolano, il lavoro dell'Accademia dell'Antimafia e questo 360 Media Pop Fest 2025 in questi due giorni porterà appuntamenti interessanti, transmediali, insomma nell'ambito delle arti, ma non solo, insomma legato sicuramente al rapporto tra arti e territorio e tra arte, ricerca, scuola, insomma una serie di appuntamenti da non perdere. Invito ad andare sul sito appacademy.it per il programma completo. Poi andiamo ancora avanti al Teatro Belli, dove dal 13 al 18 maggio, quindi da questa sera, sarà in scena Brigitte Bardot, Scandalo e Solitudine con Patrizia Bellucci, la regia è di Fabio Lombardi. Questo spettacolo chiaramente sulla vita della celebre B.B. Brigitte Bardot, quindi Teatro Belli con Brigitte Bardot, Scandalo e Solitudine. Poi Teatro Algostudio continua la rassegna Over, Emergenze Teatrali. In questi giorni, 16-18 maggio, andremo a vedere questo spettacolo di Carlo Geltrude, lo spettacolo Cantanti, che debutta proprio in questa occasione, che aveva vinto la quinta edizione di Over, mentre invece 17-18 maggio si presentano gli studi delle quattro formazioni artistiche individuate dai promotori del network che appunto dà vita a Over. Si tratta di appunto questi studi, 17-18 maggio, saranno due il 17 e due il 18 maggio. Quindi insomma andiamo anche lì sul sito di Dargo Studio per vedere qualcosa di un po' più preciso in merito alla rassegna, ai programmi dei vari studi. Poi al Teatro Biblioteca Quarticciolo, sabato 17 e domenica 18 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, con la collaborazione del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieri, andiamo a vedere Roberta Lidia De Stefano e Maria Vittoria Bellingeri con Cassandra, questo testo di Sergio Blanco che parla di questa donna in transito che vive nella periferia di una città e che approfitta di ogni occasione per dare voce alla sua storia. Quindi andremo a conoscere questa donna in transito, questo spettacolo prodotto da Earth, arriva appunto al Teatro Biblioteca Quarticciolo a Roma. Procediamo ancora al Teatro Le Maschere. La rassegna Magnifiche Presenze dal 14 di maggio prevede questa settimana questo racconto di Carlo D'Amicis con Maledetto nei secoli dei secoli l'amore, e il progetto teatrale di Valentina Sperlì e Renata Palminiello. Seguiranno poi altri appuntamenti prossimamente, quindi Teatro Le Maschere, questo appuntamento da non dimenticare, mentre invece comincia Futuro Roma, questo festival internazionale di danza e cultura contemporanea al Teatro Brancaccio, Brancaccino Open Air, allo Chapiteau e al Parco di fronte al Teatro Brancaccio. Fino al 21 giugno saranno spettacoli di danza, incursioni urbane, qualche incursione anche di circo contemporaneo, quindi invito ad andare sul sito anche qui probabilmente già del Teatro Brancaccio per il programma completo e l'elenco degli spettacoli e delle attività. Si comincia appunto venerdì 16 di maggio. Poi Fortezza Est, 15-17 maggio, per questo Pagliuzzi di Alessia Cristofanilli con la regia di Tilina Pietro Feminò, 15-16-17 di maggio. È questo lavoro, un monologo sul potere delle parole nelle dinamiche delle relazioni, e questo con in scena Giulia De Luca, sarà al Teatro della Fortezza Est, 15-17 di maggio. L'amore è una follia, al Teatro delle Muse, con la regia di Paolo Mellucci, andiamo a vedere la storia di Carlo, del 15 al 18 maggio, un uomo sui 50 anni che vive da solo ed è deluso da una relazione d'amore, ha deciso di non avere più rapporti con le donne, ma chiaramente chissà se questo poi sarà portato davvero avanti dal nostro Carlo. Invece a Villa De Santis comincia il 18 Roma Borgata Festival, questo festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, con una serie di appuntamenti. Invito ad andare sul sito romaborgatafestival.it per il programma completo curato da Alessandra Muschella. E invece poi noi procediamo, perché comincia questa settimana dal 16 anche il Festival Inventari, la festa del teatro off di Roma, dal 16 maggio al 10 di giugno, con Pietro D'Attola e di Flavia Germana Delipsis alla direzione artistica per la 15ª edizione, e sarà appunto diffuso in quattro spazi: Carrozzeria Notta, Teatro Trastevere, Teatro Sofia e Teatro Basilica. Questo appunto il programma di Festival Inventaria. Invito appunto sul sito di Arti in Connessione, Festival Inventaria, ad andare a vedere il programma completo, e sul sito anche dei quattro teatri che abbiamo citato, o dell'associazione dovecomequando.net che organizza il festival. Dunque, poi invece al Palladium, Università Roma 3, Casetta Rossa, torna Overground 2025, questo festival di arti performative tra città e sostenibilità. Molto interessante, interverranno vari artisti come Andrea Cosentino, Bartolini Baronio, Anna Wolf, gli artisti del Teatro e Basco. E si comincia appunto il 16 di maggio con L'asino albino di Andrea Cosentino al Teatro Palladium, un piccolo capolavoro del passato, insomma, lo ricordo perché l'ho visto varie volte, un lavoro meraviglioso. Poi 17 maggio, Margine Operativo, Carlo Massari, Francesco Leineri, Bartolini Baronio, appunto, insomma, andiamo anche qui a vedere sul sito del Teatro Palladium dell'Università Roma 3 il programma completo. E io direi che possiamo procedere, perché Angelo Longoni, scomparso da pochi giorni, da poche settimane, il suo ultimo testo, Noi Giuda, con Massimo Ghini, vede la scena al Teatro Parioli dal 14 al 18 maggio, e a drammaturgo lo spettacolo è chiaramente dedicato. Un grande pianista come Glenn Gould, L'ultima nota, vive con la regia di Ennio Coltorti dal 16 al 18 maggio all'Altrove Teatro Studio. Poi ancora alla Fortezza Est inizia anche la rassegna di teatro e libri per bambine e bambini, Pop-up, teatro dal libro alla scena, dal 17 maggio al 15 giugno, quindi anche qui sul sito della Fortezza Est per qualche informazione più precisa. Mentre invece andiamo al Teatro Basilica, perché ci sono due spettacoli. Allora, il primo dal 13 di maggio, esatto, a 2 giorni, oggi e domani, 13-14 maggio, scritto da Victoria Blondeau, regia di Simona Desarno, è questo Quando i pesci ricorderanno allora noi. Questo è il titolo di questo lavoro. Ci troviamo in un acquario al centro della scena, due pesci rossi. L'acqua è sporca, il livello di ossigeno è basso e loro hanno bisogno di respirare. E a rompere questo equilibrio è l'avvento di un terzo pesce che viene lasciato morire. Questo cambia tutte le relazioni all'interno della scena. Quindi 13 e 14 maggio per Quando i pesci ricorderanno allora noi. Mentre invece stesso teatro, Basilica, 16 e 17 maggio per Il muro trasparente, delirio di un tennista sentimentale. Questo lavoro con la regia di Paolo Valerio, che appunto è anche in scena, la cura è, oltre alla sua, anche di Monica Codena e Marco Ongaro. È uno spettacolo particolare. Sul palcoscenico c'è solo Max, il protagonista, che affronta la crisi della sua vita come ha sempre fatto, giocando a tennis, misurandosi con la passione sia del tennis che quella amorosa. Emergono, insomma, le sue emozioni, le sue ossessioni, e chiaramente questo è un modo per fare un po' i conti con la propria vita, con il proprio equilibrio. Quindi 16-17 maggio per Teatro Basilica con questo Il muro trasparente. Ben due ultimi lavori di cui vorrei parlare. Il primo è al Teatro India, Leonardo Lidi, 14-25 di maggio, per questo lavoro con la firma di Diego Pleuteri, Come nei giorni migliori. La regia appunto di Leonardo Lidi, in scena Alessandro Bandini, Alfonso De Vreis. credo si pronunci in questo modo, e si tratta di questo lavoro che racconta la quotidianità di una coppia tra dialoghi serrati, comprensioni, affetti e lavori tra A e B, poco importa chi siano veramente questi due amanti, ciò che conta sono le loro anime, travolte da questo sentimento inesplorabile. Quindi questo andremo a vedere al Teatro India, ma invece al Teatro Vascello arriva a Roma la compagnia, una compagnia molto interessante, la compagnia si chiama Apoteca Celidonia, lo spettacolo è Felicissima Giornata e andrà in scena al Teatro Vascello da questa sera fino al 18 maggio con Dario Rea, Antonella Morea, la regia di Emanuele Del Rico e le voci delle donne e degli uomini del Rione Sanità. Chiaramente un lavoro che parte da Napoli, dove la compagnia vive attivamente dal 2018, portando il teatro in mezzo ai vicoli bui e abbandonati. Quindi nelle interviste, nella possibilità di entrare all'interno dei bassi e delle storie che li abitano, anche l'opportunità di riflettere anche sui giorni felici di Beckett e farlo diventare Felicissima Giornata. Questo è quanto, io chiudo qui, saluto tutte e tutti e vi auguro buon pomeriggio e buon teatro. Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.